Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Oggi l'Eurogruppo darà il via libera alla fine del piano di salvataggio delle banche spagnole. Restano però molti dubbi sullo stato di salute del sistema bancario iberico. L'annuncio ufficiale, atteso da tempo, dovrebbe arrivare dall'Eurogruppo e sancirà il via libera all'uscita della Spagna dal programma di aiuto per la ricapitalizzazione delle banche. Si tratterà, questa l'attesa, di un'uscita pulita. La Spagna, cioè, non chiederà un prestito precauzionale al Fondo Salva Stati. Iniziato nel giugno 2012, il piano di salvataggio del sistema bancario spagnolo, 100 miliardi di euro complessivi a garanzia, lascia però molti interrogativi sullo stato di salute della finanza iberica. Più di un osservatore ritiene che non sia ancora stato risanato completamente e che, cosa più grave, siano stati rifinanziati i prestiti a rischio. Per Carsten Breschi, senior economist presso ING Group, le banche spagnole non sono ancora fuori dai guai. Non penso abbiano bisogno di altri finanziamenti, dice ai microfoni di Euronet Plus. Si sono presi una busta enorme di soldi che non hanno ancora usato per il piano di ricapitalizzazione. Il vero problema, aggiunge Peter Klepp di Open Europe, è che stanno di nuovo crescendo i prestiti a rischio. If you look indeed at the situation of Spanish banks, you can see that bad loans are still on the rise. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bruxelles mette sotto la lente di ingrandimento le esportazioni tedesche, lo ha annunciato il presidente della Commissione Barroso. Per adesso è solo l'avvio di un'analisi approfondita che ci metterà mesi a concludersi, ma l'annuncio ha un significato politico. La Commissione Europea ha avviato una procedura ai danni della Germania per far luce sullo straordinario surplus delle partite correnti che viene registrato da mesi. In pratica, l'atteggiamento di Berlino, accusata da tempo di agire per gonfiare le sue esportazioni, per la prima volta verrà messo sotto la lente di ingrandimento appunto di Bruxelles. Geert Wilders e Marine Le Pen hanno sancito ieri all'AIA un'intesa politica per arrivare ad avere un gruppo anti-Europa nel Parlamento europeo, quello che scaturirà dalle prossime elezioni della fine di maggio dell'anno prossimo. Il PVV anti-Islam dell'olandese Wilders si propone, insieme alla formazione Front National della francese Marine Le Pen, di coagulare tutte le forze euroscettiche che, sondaggio alla mano, saranno assai numerose nella prossima plenaria. Ancora, l'Europa si nasconde davanti all'esodo dei siriani. La Svezia, dice Stoccolma, resta sola. Lungi dall'essere finita, la crisi siriana è solo scesa nella classifica delle crisi in corso. Ai 2 o forse 3 milioni di siriani che hanno già lasciato il paese se ne aggiungono centinaia ogni giorno. Scappano nei paesi vicini, ma tentano, lo sappiamo bene, anche il balzo verso l'Europa, a rischio della vita. Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno concordato con l'ONU che per il 2014 30.000 siriani potranno trovare rifugio in Europa, ma alla fine solo un terzo delle posizioni è stato realmente aperto, in maggioranza da Germania e Norvegia. La Spagna, per fare un esempio, si è detta disponibile ad accogliere solo 30 persone. Dal lato opposto c'è la Svezia, che ha semplicemente deciso di concedere asilo immediato e permesso di soggiorno a tutti i siriani che si presentano ai confini nazionali. Una decisione non facile, dice l'esecutivo svedese, soprattutto in tempi di euroscetticismo, che monta anche lassù, e populismi striscianti. Ma, spiega il ministro all'integrazione Ullenag al quotidiano spagnolo El País, non potevamo cedere a messaggi xenofobi, non avremmo fatto altro che rinforzare le fila degli ultras. Però, ammette, ci sentiamo soli e chiediamo all'Europa di prendersi davvero le sue responsabilità. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Saranno gli Stati membri a decidere sulla firma per l'accordo di associazione con l'Ucraina. Per il caso Timoshenko ci deve essere un avanzamento chiaro per la soluzione della situazione. Kiev presenterà un rapporto e questo rapporto sarà di importanza cruciale. Così un portavoce della Commissione risponde agli interrogativi sui passi in avanti appunto compiuti verso l'accordo che dovrà essere firmato, lo ricordo, l'accordo di libero scambio entro la fine del mese tra Bruxelles e Kiev. Bene, con questo è tutto. Un saluto da Filippo Reggi in regia, da Gigi Donelli. L'appuntamento con l'Europa è domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.